rimbomba troppo e si sente, perché il microfono è sempre in quella base. Sì, anche per me è così, è perché è tutto chiuso, quindi rimbomba ancora di più. Se dovessi andare io, ragionando, vedi che la soluzione dell'alimentatore la trovo subito, sicuramente. Capito? Dice a fare un sistema dove l'alimentatore non si deve sentire la ventola. Purtroppo non si può sonorizzare perché io ce l'ho uguale, quindi io l'ho messo praticamente lontano dalla radio, lontano dall'MC60, lui ce l'ha a fianco. Ce l'ha a fianco, poi quel microfono, essendo ancora più forte dell'MC60, è chiaro che se lo porta dentro. Ce l'ho a fianco, ce l'ho a fianco di su. Allora, praticamente sono tre piani. Uno, due, tre. Al piano di su e sotto c'è la radio. No, due piani sotto. Due piani sotto, però è chiuso, così è. No, dietro è libero per respirare la radio. Ma rimbomba troppo, al vento la senti un bel, anche se accendesse ogni tanto, lo sai, ti dà tregua, ma così è sempre fissa, è un casino. Ci hanno rotto le palle, c'è troppo casino dietro la radio. pochettino così per coprire tutti i cavi, tutte le cose, magari una piccola frottatina lì, tocca non tocca, ti fa questo problema, magari una cazzata. Altri 250 c'è un correttore, lì ci sono i cavi remoti, quindi basta che il cavo remoto veda o tocchi e va e fischia, capito? Perché stazione non c'è. Ho fatto un capolavoro di antenna a fine del mondo. C'è tutti i radiali nuovi in alluminio, proprio ben messi, giusti, con le viti sue. Non ho dovuto forare niente, nulla, proprio è perfetta, stazione non c'è. Ma lo leggo anche qua. Se metto un SWR, un E1, senza accordatore, è sganciato la T250. Ma non è strano il radiale in alluminio? Sì, appena appena più corto, ma non fa niente. Così, no, io mi ho preparato il palo, qua. Ho trovato anche i bulloni, quelli, non so, in via, come si chiama, in acciaio. Gli ho fatto 4 punti, domani sera me li salvo e così è pronto. Per saldare, sì. Sì, diamo la cavicchia bene, abbastanza. No, vabbè, avvio da saldare che cosa, vediamo. C'è quella piccolina salatrice. Sì, c'è quella piccolina che scioglie il basico da 3,25, ti basta. Il piatto. No, vabbè, a 2,5. Dovevo mettere due bulloncini lo stesso. Mi sono staccati in un telescopico ed è un pretello. I due dadini per fissare il coso mi devo sollare. Quando facciamo. Vabbè, sono tornati fatti, lo posso smontare e portare lì, non c'è problema. Faccio la furgonetta adesso, vai già. Pure io. Buonasera. Chi è che è entrato? È entrato Marco, poi c'è un altro. Chi è? Buonasera a tutti, Salvatore. Ok, va. Ciao Salvatore, ciao Marco, buonasera, Massimiliano da qui. Sei in compagnia di Claudio e Gianni Doppio Runa. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, Gianni, Salvatore. Vabbè, già risolto? Sì, risolto. Sta fischiando appena, però devi dire anche a Marco di abbassare le voci. Troppo forte sto parlando. Io parlo piano piano. Purtroppo sono vicino, 40 centimetri. No Marco, non a te, a Marco il figlio di Gianni, che fa, non so la tua faccenda, però si sente Marco, più di Gianni senti i figli. Avanti Salvatore, buonasera. Ehi K, salutoni a tutti, io per ora nelle vicinanze non c'è nessuno. Sentirete solo un urlo disumano quando mi chiameranno che è pronto per andare a mangiare. Ciao zio Cla. Oi Barò, buonasera, ben ascoltato, tutto bene? Abbastanza, stanco morto, cioè, sto passando 10-11 ore in ufficio in questi giorni. Comunque, raccoglieremo i frutti, per ora seminiamo. Vabbè, salutoni Marco, Massimiliano, Gianni, Claudio e poi che qualcun altro mi avete detto, Ocla. Gianni Perun, Marco, io, tu e la Rosa e Blu. No, non seminare, non seminare, perché un giorno io mi ricordo, proprio per le ore fatte in più, no? Allora, ingegnere, guarda, io sto iniziando a seminare, mi ha detto non semini troppo e inizi a mettere allora il gasolio nella motozappa. Adesso non avevo compreso questa curiarina. Alla fine giunge la butta a baga, infatti tra due ore non venire. Ci sono i broccoli, mi sta dicendo mia figlia. Sì, tanto ti stanno sentendo tutti quanti in questo momento. Puoi dirla a tutti. No, grazie. Fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Ma fai quello, certo, certo, fai quello. Certo, noi siamo liberi, è un forum, è un forum. No, per me mi firmano l'autorizzazione il giorno, qui lo chiedo, e poi il giorno dopo vedono, anche se ho fatto 3, 4 ore, 5, 6 è capitato, no, non obiettano, perché insomma dipende sempre anche da come ci si comporta, tutto lì, là. Lui se vuoi parlare con un muro, faccio parlare con un muro. Sono un tigolo, può fare un bel papetto che fa Luca. Sì, anche a me mi sta bruciando il baracchino, però. No, ma è fatto prepotente. Claudio, guarda che adesso, no? Se proprio vogliamo giocare, no? Cosa faccio io? Un amplificatore, anche 104, ma è importante. Non so a che punto arrivo, però partito ne do, con 104, quanto partito do, va bene, do. Sì, certo, mi passerai ad Alghero, con dottore, ma Sassari, cioè, quali i punti, e basta, Poi la prova te lo do io, l'amplificatore, dai. Io devo solo commutare l'antenna, metto la direttiva, quella che c'era prima, e facciamo le prove. Vai a cosa lo smartphone, non vai. Adesso con i treni, i gusti, fidati. Io ti faccio vedere che do fastidio, un bel. Tu lo finisci, pipì, po. Cioè, tu devi attaccare, io ho 100 watt, poi il 747, ho 380. Quello basta. Ma... Basta. Ma giusto, no, scusate, lo smartphone. Ehi, ma infatti tu alla fine parlerai con Salvatore e con qualche altro, non già, non lo so, non lo so se giro la direttiva cosa succede. Comunque, tu fai la prova con me, non con gli altri, con me falla. E poi vediamo. Io, Marco, senti cosa sta dicendo questo ragazzo. Come passa poco l'amplificatore? Certo che basta poco, non basta un amplificatore grosso, poco, e si dà fastidio. Quello l'ho già fatto, Mitra. Tu non ti ha passato per parlare con lo stai via Pasqua era Franco, anche io passare la diciamo a Baschi. Abbiamo già fatto la prova, non si chiamava Chiera, poi se ti ricordi bene l'ho fatto che ero io, con l'amplificatore di Luigi Vulcano, se ti ricordi bene. Tu parlavi solo con Franco. Ehi, ma io ti sto dicendo che uso la direttiva con l'amplificatore che ho io, il kilowatt. Con la direttiva però, senza perdere molto tempo, solo con la direttiva. Prima con la direttiva, con la televisione che ho io, l'altezza non girato, sì, tu no, puntata sopra di te e in mezzo a Salvatore, poi facciamo la prova. Ah vabbè, ma Nico, guarda che adesso no, non è fuggiuta, non devo stare via a speccare corrente, niente, cioè è cala la corrente, però dico, se uno ha un punto alto, no, proprio un bel punto, con 5 volte spacca il culo a tutti. Perché io cosa faccio? Tu pensi io ci sono di potenza, a me non me la puttiuta, stiamo scherzando, non è quello il problema. Ma quando tu parli di una direttiva di agi tre elementi, che poi è adatta per la 27, la lavoro io no, in 10, ma va bene anche 11 perché la stavo usando, sempre puntata a nord, non l'ho mai girata, però quando la giri, come ho fatto l'altra volta, che l'ho girata sul Capri 2 ed era 9.40, discorsi cambiano, come se la giro i punti è chiaro che cambia, come se la punto sopra di te o sopra Salvatore, non lo so cosa succede, ma stiamo dicendo coglionate, tutti danno fastidio, è chiaro che danno fastidio, poi la portata non si mette in trasmissione perché trovi quello più forte che ti crepa e la portata si mette in ricezione, no? Come si faceva in vecchi tempi. Si conferma, certo, ma dico, se uno va a rompere le palle è a punto buono, con pochi watt basta, ma boh dai, riprendi che io, è ora di papà, vado a farmi un, ci mi è rimasta una pasta da pranzo, tutti di mare, una scaldatina, un goccettino di olio d'oliva, una birretta e via, arrivo subito, a dopo, ciao a tutti, riprendi tu là. Ehi, va bene, ciao tigre, avanti. ci sono io, Salvatore, Marco, Gianni e Massimiliano il Bulldozer. Buonasera circolare a tutta l'equipe del canale 10. Va bene, c'è anche il signor Bulldozer. Sì, ma si fa vedere proprio con il signor Bulldozer, Luffisi. Buonasera, ciao Tigre, ciao Luca, buonasera, va. Va bene, ciao Luca. Massimiliano, dimmi come mi ascolti, perché sono col palmare con la saponetta al microfono. Io ti ascolto, 9:15 in radio 5, perfetto. Ti vanno avanti Salvatore, vediamo un po' come ti ascolta lui. Ciao, 9:05, radio molto bassa, però si capisce molto bene. Claudio. Il microfono per, ciao Sandri, il microfono per Gianni, che il parcheggio poi vai per Marco già. Ciao Sandro, mi senti perfetto, dai, non lo so, avanti, Sandro, non so se mi ascolti, comunque 8:30, sei più alto degli altri giorni. Ok, ciao Marco, ciao Gianni, Salvatore, quant'altro. E come mai mi ascolta? C'è un segnale di propagazione qua, Santiago 8, Sandro. Sì, va bene, ok. Come sta parlando, Sandro Marco? Gianni, sei tutto bombardato. Cosa? Sei tutto bombardato con la modulazione, cosa stai usando? Il 908? Cosa vuol dire bombardato? Buonasera. Bombardato significa troppa amplificazione. Io faccio il tempo, signor. Mamma mia, adesso ascolto più QRA che a te. Purtroppo ci sono. No, io non riesco proprio a capirti, oggi. Ma la radio è un po' forte adesso. QRA. Chiuditi la porta, Gianni, come faccio io? Autoamplificazione, cioè le parole... Vabbè, comunque. Va bene, ok, signor Bulldozer. Già siamo qua ne senti di Abruzzo? Sottofondo si sente, però con la tua modulazione lo copri in quell'attimo dove fai quei piccoli spazi che non moduli, allora subito il rumore, però diciamo con la modulazione li copri. È positivo perché io ce l'ho grossa, capito? Cosa c'hai tu? Vedete che io ce l'ho grossa. Ciao, la modulazione, cazzo la tua sede di Marini. Cerca di mettere la modulazione grossa, non questa grossa. Va bene, scusa, ho sbagliato. Se accetta, ognuno ce l'ha come vuole, io ce l'ho fine. Salvatore. Sì, delicata, sei proprio tutta delicata. Salvatore, la salute ce l'hai. Da Vicolettica. Già ieri notte mi hanno fatto una regolare tutto quanto continuamente perché hanno detto che non andava bene, adesso mi sono rotto le palle, la lascio così com'è la configurazione, boh, non tocco più nulla. Scusate che rispondo a due cose, io non me la sento per niente. Allora è un problema più, perché tu usi il palmare, capito? Se usi il microfono la tavola, allora è diverso. Esatto, bravo, ok, vabbè, Claudio, avanti. Qua l'unica modulazione da salotto c'era Marco, avanti. Io? Beh, non tanto, sto usando il K, vediamo come va, 1-3, 10 watt, no. 12 watt, di portante muta, vediamo. Ma è bella la modulazione, va bene, ho detto da salotto, nel senso che non è bombardata, come dice Sandro. Sandro, come mai mi ascolti oggi? Marco, ti ascolto bene. Il tuo rapporto, Santiago di 7, oscillante a 8, con la modulazione class musica rilassante, riposata, come diceva Claudio da Sarto. Vai, oh Gianni, che l'abbiamo lasciato in parcheggio, vai che hai chiuso la porta. Sì, adesso ho cambiato l'alimentatore, si sente il rumore della ventola? Negativo. Ah, adesso è bella, eh. Ho cambiato l'alimentatore, l'ho messo acusticamente perché non lo so, però si sente il fischio, non capisco cosa cacchio l'ha preso. Ammazzalo per mettere a mezzogiorno l'autolevel. Ma con quanto stai uscendo, ho già? 15 watts. No, no, no. I valori sono quelli, Sandro, sono quelli uguali all'altro, al V908 che hanno già provato. Cioè a livello molto alto, ammazzalo per appena già. Perché Massimiliano gli aveva fatto sollevare a fare una prova. Mettilo a mezzogiorno, o meno di mezzogiorno. Provalo lì, ammazzesci. Hai toccato il nuovo cavetto? Niente. Ah? Non ho toccato nulla, come scappa invece. Thank you. Massimiliano. No, io la sento, cioè, la sento discreta, la sento discreta. Io non so, a me mi piace Radio La Battaglia, però la preferisco prima, dai. Ok, comunque mi va bene anche così. Sandro, ascoltalo tu che senti lontano, vediamo un po'. Passaggio già. Prova, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso abbassate il macchinino e aumentato il microfono. Allora, qualcosa l'hai migliorata, adesso la modulazione è più chiara, capito? È più chiara. Perfetto, adesso sentiamo. A Salvatore, poi tocca a Marco che ce li hai vicini. Salvatore, vieni avanti con chi su o chi siamo tornati che vai. Non ci gioco più. Anzi, il pallone è mio, me lo porto a casa. Una cena lì. Ma se ce l'hai attaccato, come lo vuoi sentire a Gianni? Devi attenuare. Cioè, allora, il 7008 c'ha, mi devo mettere gli occhiali, no, per vedere come è mille. 1, 2, 3, 4, 5, 5 attenuazioni. Metti a zero, attenuala a zero. Ma l'ho già tagliato, cioè, è già attenuato di 18 decibel, è che già in partenza è una fucilata, capito? Non ci gioco più. C'è un amico Salvatore. E attenuano, mettilo a 0 dB. A vedere cosa succede. Ma cosa vuoi ti dica? Siete Gianni è un problema, perché un problema, dico, in senso buono, perché in mezzo a voi ed è una fucilata, guarda, rimane 9 più 30. La radio non ti dico che cos'è, è chiaro che io sono distante, però è chiaro che voi siete vicini. Marco, un tuo parere. Boh. Cioè mi meraviglio di voi, vecchi CT della 27, cazzo, si sente un tiro di schioppo, è normale, no? È normalissimo. Va bene. Gianni, io voglio sentire quel microfono senza tu adesso stai usando l'equalizzatore. Fammelo sentire con compressore e escludi l'equalizzatore. Dici come si fa, perché io non l'ho ricevuto oggi. Sapere come si fa è un problema. Se me lo dici tu come fare? Lo dico io già. Il tastino di accensione, cioè off, on, on. Togli l'ultimo on, mettilo a metà. Il primo on, vai. Ecco, tolto allora. Fammi un passaggio lungo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Figurati, già amplificato così, figurati. Il compressore ce l'hai inserito? Sì, già, il compressore inserito. Ok. Avete mai chiuso dalla radio un attimino? Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda. Niente a paragone con l'equalizzatore. Dottor Rutti, questa prova non l'avevamo fatta, eh? Io mi meraviglio di te, cazzo. Guarda, così è a volere il massimo. Non è male, Salvatore. Ehi, oh, stavo asciugandomi le lacrime. Ma io, vedi, comunque Gianni, adesso a parte gli scherzi, io lo sento con un segnale leggermente più basso, ad esempio, di Marco e di Luca, che ce li ho qui fuori dalla finestra, che però hanno una voce molto più chiara e molto più la modulazione è di gran lunga più pulita, questo volevo dire prima. Quindi io posso, è vero, con i filtri e il lungo e il largo migliorare eccetera, però all'origine mi sembra che sia proprio già un leggermente è troppo amplificata per i miei gusti, proprio la sento così. Poi è chiaro, mica deve fare quello che fa, quello che gli pare, gli piace, ci mancherebbe altro. E poi tiene conto del fatto che parla con persone che non sono proprio dietro l'angolo, ma sono anche dall'altra parte della città, per cui, per carità, una via di mezzo si troverà sempre. Sì, te confermo. No, Sandro, è che noi siamo partiti direttamente a equalizzare il microfono. Poi è chiaro che per conto mio, per come lo si Marco, ci sei? Sì, ci sono. Vorrei un passaggio lungo da Gianni, però lungo, non uno, due, tre. Questo è quello che vuol dire. Prova radio, patetiche e trasmissione, guarda. Allora già, io ho tolto tutti i filtri, ti ho attenuato, però la sento non chiara, impastata, non so come dire. Oh, aspetta, non mi piace, devo essere sincero. Esatto. Perché non vi piace? Perché questa è la tonalità tipica dell'MC60, uguale, è impastata Marco, perché non ha tonalità alta, quindi Gianni deve usare per forza l'equalizzatore inserito. Prova Gianni senza toccare niente a inserire l'equalizzatore, a rimettere il mic gain della radio com'era, perché possiamo sempre abbassare ancora il mic gain se è troppo alta di amplificazione. Però è necessario che Gianni usi l'equalizzatore per avere gli acuti, se no rimane impastata Marco, hai perfettamente ragione. Pappa, guarda, così sto usando il coso, la posizione poco fa. La senti Marco la differenza? Vabbè, un po', ma io vorrei sapere, rispetto alla mia modulazione, quella di Gianni in che cosa cambia? Per esempio, adesso, così come lo senti adesso? Sì, più acuti rispetto a te, solo più acuti. Vado più forte anche io in radio, di te. Allora, considerate che siete anche vicini, signori cari, dovete considerare anche quello, perché lui quando subentra, soffretta con l'equalizzatore, aumenta gli acuti, quindi fatta di più il mic. Per me, essendo in lontananza così via, lo preferisco senza equalizzatore perché la modulazione te la fa bella chiara e si sente anche l'amplificazione. Adesso logicamente siete vicini, c'è chi ha l'orecchio di una maniera e c'è l'orecchio di un'altra, quindi sono tutte valutazioni così, dai. Certo che sì, però tenendo conto che il microfono è equalizzato per la sua voce, la potenza di quel microfono è allucinante, la tonalità per me è buona, non so cosa dirvi, poi già state a contentare i tuoi vicini, giustamente, tieni conto che Salvatore c'è un bestione, c'è una radio dove può fare anche il caffè, quindi non ha problemi a ricevere meglio, sicuramente. Io ricevo con 4.30, ho due filtri solo, largo o stretto, quindi non posso fare altro. Se ti ascolto col 1000 sicuramente ti ascolto meglio, però dico, per questa radio la tua modulazione va benissimo alla grande, ce n'è anche prima ieri. Non sono lungo quattro scimmiglia, lui dice la sua. Io vorrei una cosa stabile da lasciare così e basta, tutto lì. Guarda, io più bene di così non ti posso ascoltare, tenendo conto che sono distante, Massimiliano è distante, Sandro è distante, tu l'handicap che hai purtroppo che sei attaccato ad altri CB che chiaramente non ti possono ascoltare sicuramente come ti ascolto io e Massimiliano, così è Massimiliano. Positivo, proprio così. Però Marco, che io ce l'ho sotto casa, e Luca che è a fianco alla finestra, è questo che io non mi so spiegare, capito Ocla? Li sento puliti. Ora, intanto Gianni c'ha un segnale, nonostante sia Marco più vicino a me, rispetto a Gianni c'ha il segnale molto più basso, quindi due sono le cose, o perché Marco usa un altro tipo di antenna, usa forse più pochi watt, non lo so perché poc'anzi ha detto 12 watt, Gianni c'ha un segnalone qua, cioè il segnale di Gianni è allucinante, con 140 è allucinante, 9 più 30, non c'è nessuno dal monte che mi arriva a 9 più 30, assolutamente. Luca che è ancora più vicino a me è 9,25, ma Luca usa 10 watt, come Marco lo stesso è 9,20, però usa 12 watt, ha detto poc'anzi. Ora il discorso sta lì, quanti watt sta uscendo Gianni? Claudio, io adesso sono sui 25 watt e oltre. E sei salito a 9,25, però tieni la modulazione sempre molto chiara, molto bella. vorrei mettere 12 watt come Gianni, una decina di watt. Vabbè, Salvatore, senti la modulazione. Allora, canali 10, frequenza 27.075, modalità M. Come ti sembra a te? Vedi, guarda, è pulitissima. Ma pulita. Non so che dire. Io sto uscendo, il mio picco è di 5 watt, come picco, sto uscendo proprio minimi sindacali dalla radio, però ecco, la tua è pulitissima, 9 e 40, 42, 43. Avanti. Avanti, buonasera. Tutto saturo. Questo è l'altro riferimento che abbiamo. Un giorno è uno spettacolo, il secondo giorno è un po' meno, il terzo giorno è una gagata. Cosa stai pensando, Elio? L'hanno partito proprio dal Bacconi. Metti il microfono che ci avevi, usa la radio che ci avevi, perché faccio fatica io ad ascoltarti. Aspetta, io dammi un controllo di radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fatto già, io ti ascolto perfetto qua. Una bomba, sì, Gianni, perfettissima adesso, perfettissima. Non so cosa dirti. Io vi dico io una cosa invece, devo andare a cenare. Dai, ci sentiamo tra un po'. Ciao ciao a tutti. Aspetta, Salvatore, stiamo venendo tutti lì. Aspetta, fammela sentire a me adesso quella di Gianni. Oh, mamma mia. Vediamo un po' come va, dai. Cazzo di là. Ma più lungo il passaggio. 1, 2, 3, prova. Registrami, così mi sento, non esco e decido io cosa fare. Registratevi, se c'è qualcuno che può registrare, mi registri. No, se la senti all'apparato è distorce. Comunque, mamma mia, le campane, già, adesso va bene, se mi ascolti adesso va bene. Sono andato in un altro canale, mi sarei messo nel cuffio, mi avrei ascoltato e me l'avrei registrata a modo mio la radio con un'altra persona. Ma allora io così non ti ho mai sentito, tu si toccare Michi, però io ti ascolto perfetto, cioè vuol dire perfetto, una radio allucinante. Io sottolineo, tanto ciao Salvatore, io sottolineo, Massimiliano, è meglio di così, non si può uscire, poi possiamo stare sino a domani mattina, però... Lasciamo lo bus. È in Atalanta. Aspetta, salutiamo Salvatore, dai. Ciao Salvatore, buona cena e un proseguo di serata. Prima ti ho detto che era generalmente come in passata, no? Non lo so, adesso è meglio. Va bene, dai. Avanti. C'ho l'Alzheimer, non mi ricordo. Da Porto Torres. Va bene, ok, dai. Finge allargare, va bene così, dai. Lascia tutto così, però logicamente la modulazione più forte, più elettrificata. Da parte mia, ok. Signori, ne approfitto, vi lascio, ce la risentiamo tutte le prossimine. Buon proseguo. Avanti, grazie. Vabbè, Claudio, non riprendo io, va. Ok, ciao Sandro, buona serata anche a te. Un abbraccio, ci sentiamo le prossime. Vai Marco. Aspetta un secondo. Aspetta Marco, scusami. Guarda. mi allontano un minuto. Gianni, lascia tutto così. Non so chi sta parlando. Elio, sei saturissimo, adesso da zero a zero. Cosa hai fatto? Elio, rispetto a altri, talmente saturo che non esce di radio, si sente appena il fischio. E adesso? Però bassino. Adesso? Siamo lì da 1, 2, 3, 4, 5. Ma hai modificato qualcosa rispetto a quando modulavamo la notte? Capo, no, solo ho cambiato il microfono. Perché l'ho dato a una persona che l'ho fatto. Va bene, comunque ciao Sandro, se ci sei ancora, ci sentiamo, avanti, devo riprendere. Vai già, vai. Vai tu. Ma c'è qualcuno che non ha il K qua? Io ma ce l'ho sento. Ah, so, come non ascolti a me, oh, Marco? Bella. Sì, niente da dire, ho tolto tutti i filtri, mi sto anche attenuando e va bene. Come arrivo là con 10 watt? Sì, 10 watt sono. Allora, qua tu a me ne arrivi 9 più 15 a picchi di 20. Eia, è tu simile. 9,13 a picchi di 20, neanche forti picchi. Perché questo ne ha di più del tuo. Allora rettifico, 9,15, sei 9,15, non so quanti watt abbia, io ne ho 10, praticamente 10 di portante muta, ora, sì, 10-11 vai per eccesso, bisogna vedere quanti ne escono in antenna, ecco. Vabbè dai, qua ci sono altri 10 watt. La portante muta? E la portante muta, tutto che la faccio, c'è la televisione accesa. Guarda. Allora, Santiago, 9 e 10 con picchi a 15. Marco! Eia! Ti ho fatto la portante muta, guarda. 9 di 10 però, eh. 7 così sono, guarda. Vabbè, c'è pure la televisione, giustamente. Siamo lì, purtroppo c'è un rumore di fondo, va bene. Avanti Gianni. Alla fine, Massimiliano, io sono l'unico che non ha né rientri di RF, né fischi nel microfono, né cazzi né mazzi. Neanche io ne ho, né rientri di microfono né nulla. Ma sapendo che io ho gli apparati che sono vicino alla televisione, tutto quello che mi penalizza. Tu normalmente arrivavi 9 qua, adesso arrivi 9,10, Allora, guarda, 8 watt di portante bianco, controlla bene, guarda, com'è così? Guarda, 9 e 20, immagino che sia full size. Positivo. Chi c'è rimasto qua? Elio? Ok, Elio, vabbè, tu c'hai il baracchino diverso l'altra volta, quindi non fa chiederti il controllo, dai. No, non c'è il baracchino diverso, non c'è quello che c'è la cassa. Come la radio adesso? Io vi saluto, scusate ragazzi, che è pronto la cena, magari ci sentiamo dopo, vai. Ciao Elio, ciao Marco, Gianni, Claudio, Sandro, Salvatore, tutti i miei ascoltatori, Luca e compagni accantati. Dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Massimiliano, alle prossime. Avanti Elio. Allora arrivi 9,9 qualcosa, dai. Kappa, ciao Massimiliano. No, com'è la radio? Allora, premetto che c'è molto QRM, molta propagazione, quindi li sento sotto, però credo che sia la consueta, più o meno. Adesso non esci. Sì, saturissimo è zero di volume. Veglia, saturissimo, sembri in FM. Adesso? No, adesso meglio. Comunque la radine non è forte, è quasi 9. Siamo lì. Hola. i segnali sono aumentati. Addirittura 9:10, 9:15 liscio, quando non ho su radio. Sei tu? Ciao, abbiamo finito la cena. siamo nuovamente qua, ancora rompere un pochettino come ieri. Regia, va bene, Gianni. Ciao, buonasera Sandro. Devo attaccare la fatica a fare altre, ma per sé. Oi, scusami, sa, sto uscendo. Oh, minimi, una pezza, vai. Diamo un po' più di brio. Ok, così arrivo. Certo. L'avevo lasciato praticamente al minimo. Al minimo praticamente chiuso. Il picco era seva. Ecco, arrivo un po' passerina. Ok. Allora aspetta che. Si presentavano una serie come se fosse stato un vecchio stile di ricezione in analogico, che puntellava quindi lo schermo, come se fosse stata una griglia, ecco, tini, che proprio la sbiadiva, ma senza neanche una riga o del genere. Questo è più strano, tutti quanti il fili di mezzo del terrazzo, ce n'era uno in particolare che era andato a finire proprio sotto, spostato sotto, vicino, determinava questo strano risultato. In quel caso lì se la possono pienamente d'accordo, perché cioè gliel'hai guardi passato a fianco, ma nel mio caso sono allucinante, perché non faccio una grinza, per me la stazione, diciamo, la radio che le fa il mare, la saponetta, non sto usando un amplificato, che posso partire capo, sai, l'amplificato. Faccio l'inizio, diciamo, al mio televisore, facciamo la mano a girare, già mi avanti. Ecco, meglio anche un amplificatore d'antenna, c'è un amplificatore dell'aria. Cioè, Giovanni, questo lo so benissimo già, infatti, quello che precisa un po' bene l'amplificatore d'antenna. Ultimamente ho piovuto, non vuole l'acqua, altre amore l'antenna, quindi l'amplificatore d'antenna è andato a quel paese, però mi sento dire, no, le chiacchiere, zero di zero. Sei tu, sono sicuro che sei tu, magari non li farà a me. Cazzo, ha registrato un becco, ma cosa, non lo so, guarda, è un poco arrampante. Ok, ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato, un salutone. E ma infatti è come dice Gianni, mio Sandro, perché io vi appascoli, quelli di fronte. Abbiamo verificato e c'era la centralina tutta al massimo, cavi tutti aggiunti, un sacco di cose che non andavano, messo a fissare tranquillamente risolto. Sempre vanno su di noi, purtroppo, però a volte non è così, capito? Avanti Marco. Te ti vuoi, perché dopo quest'ultima modifica l'antenna è una tela TV di questo. Io zittisco, non dico niente. So che fare, vabbè, mettere la mano gatto magari, ecco. Però se perdura il TV, d'altronde la mia. Mi do la mia del baracchino e non lo so cercare. Considera la mia parabola, lo facevo solo quando trasmettevo in 40-80 e in 40-80, 40-80 metri. Sono nettamente più forti dalle tue fatte. Gianni, continua a testare. Allora già ti faccio un esempio, tu stai arrivando a 9.30, non mi sembrano nemmeno 10 watt, tu mi arrivavi normalmente, no, di più sei 9.30. Devo sovrare 10 appicchi di vetti, vabbè, sento tutti più forti, comunque ne valsa la pena, non so quanto durerà, ma ci c'è più dell'altro. Ah, i pomponi, ciao Marco, saluto lui. Ho dato a colare con un coso. Ciao, stai? Ciao, bene, grazie, fa piacere sentirti. Claudio. Come pinguino, pinguino, io ti amo dopo di Bognetta. Ciao, dopo il Bognetta. Ciao, saluto e saluto a tutti, comunque ben sentiti. Sto appena rientrato nella casa di mamma. Faccio un lavoro vicino a tu a me, a 20 metri in aria. Vado. Sembra però, ma non mi ricordo la sua vita. Ti chiedo un calcio, capito? Per stamattina. E ce l'ho in lago pieno di... Catteggiando, con la mola stavo catteggiando. Antonio, anche tu sei saputo. Non ho detto che... bella antenna quella lì, veramente una bella antenna, meglio della lingua, la verità, eh. E la mia 50 apri, già avevo quei soldi, io ce l'ho, fortunatamente funziona benissimo, ancora, è perfetta, non sono avanti. Daniele. Ah, Daniele. Rientro. Sentimi, se siete a 1-2, quello che con cui deve essere riparato a Sassari. Daniele c'ha la Marco, quindi figurati tu. Avete la gemella, c'hai. Daniele, vieni. Io ti sento bene a voi. Io faccio Marvaldo, altro 65. Che faccio? Allora, lei ne si è fatta, Lorenzo. Aliscio, non ti ascoltavo proprio, adesso stai arrivando, 5 e mezzo di importante multa e 7 modulati. Quando a te non ne parliamo, non ne parliamo. Prova un po'. Sì, ripeto, 5 e mezzo, 7 modulati. Attaccato arrivavi ancora più forte, io non ti avevo mai sentito da Aliscio. Conta questa sera qua non è un QRM perché c'è il discorso è qui a QRM anzi liscio quindi allo stesso la sua marcia ho lasciato acceso però in una bamba dove non mi strasciugo strasciugo come un tanto eccetera bene, infatti sono 20 modulati 30 questo è normale la radio è Marco questo Marco tira di LC metta, vatte questo è il virginello tutto sì Daniele se mi stagi 9 quando attacchi attacchi 8 tra il 7 e l'8 quando moduli liscio quindi ottimo segnale anche la mia ok dai così ne approfitto il signore saluto gli Antonello ciao Antonello buonasera bella scuola e andiamo bene dai 95 quando attacchi da 9 ne passi a 9.15 già rende vi saluto alle prossime davanti il salotto e ti rismonti con l'antenna che ho capito che ci stai facendo un pensierino che probabilmente uscirai ancora comunque ce lo farai sapere nelle prossime Marco per i saluti a Sam ci sentiamo e aggiungo finalmente ci sentiamo dai avanti Claudio per i saluti sì. Cioè, ci sentiamo, ci aggiorniamo. Stiamo in bene, ma per domani. Ciao, sentiamo, buona serata. Buon video per domani. Ciao. Vabbè, questo è normale, quindi ce l'ha, però che l'ho tutta smontata e me l'ho un po' revisionata oggi. Mi sta asciugando rotto qualcosa. Anche da te Marco c'è picchi negativi. Non ci ho badato. Ora. Picchi negativi c'è. No. Il signore lo smetto di. Può essere sana, pulita, ordinata. Anche perché ho preso la pressione così, con ginella, forse la prima che uso in questa maniera, però quello che risponde bene di radio, quindi non me ne frega niente, 20 watt, 30 watt per la città sono città e oltre. Stanotte. Claudio. qui e ci mette a poi mettere il tubo con il baracchino e quella parete. Mi sa che quello di qua è clamido e poi. Ma c'è cosa sei? Per dire non è male. Poco, poco, veramente poco. Salvatore, guarda che devi finirla, stai diventando come noi, tu sei una persona più colpa, cosa mi ci va, mi addormento. Adesso mi sente mia figlia dall'altra parte della parete, dai, fai altro ascolto, dai. Il power, aspettate, scendo così, poi mi direte se continuate a sentire. Ok, Sandro, non... e quindi non c'è più bisogno di tirarlo, riprendi Gianni. Sì. Non posso non deve fischiare già, non deve fischiare, dobbiamo trovare una soluzione. Porto la qua domani che facciamo la volta, il capo si vede. Fatto al valo batteria e poi al diciamo spinzare. Anche come Massimiliano era così. Al valo batteria. No. C'è una localizzazione, no. Alla cassa va attaccato. Ora che c'è un amico che chiude la cassa, se non te lo faccio uguale. E non fischia come Massimiliano, prima fischia lo stesso. Cosa vuoi facciamo? Non so che fatto, già non ti abbiamo. Se vedi poco fa io ho mangiato con un muto, sono andato qua a fare tappeti, 4:30, mi sto ancora asciugando. Tutti i cavi che c'erano dietro, io tutti staccati, tutti tolti, messi tutti in linea e facettati. E cosa devo fare? Purtroppo le cose le usci, quindi già, ma è già, non è sereno, già non facciamo fischiare più. Quindi 140 questo. Sto sempre guardando, ecco. Infatti, voglio dire, ho fatto quello che Massimiliano da poco, tu vedi cosa c'era dentro. Lana, di tutto vera, polvere, tutta una pattina. Quindi gli ho tutto pulito con la trilina, questo è lo stesso, ho tutto pulito con la trilina, sopra. Come le mettiamo mai quello in polvere? E quindi deve rimanere un po' aperto per poi asciugare leggermente e fare quella pattina usando, perché con questo tipo di trattamento non si sa mai che qualche componente inizia a friggere. Ce l'ho acceso e poi magari me lo chiudo anche, solo per domani rientro al lavoro e me lo faccio alle 6 e mi posso stare come lo attendo. Lo lascio fare così, facciami. C'è questo vergine qua che funziona già bene, che sono passato con il microfono, non ti preoccupare, ha tutti i bimbi, ha visto che ci sono andati due attacchi di bene, ti faccio un ponticello, manco sembra comprato apposta, capito? Comprato uno che lì seconda fita a fianco a quella che vuole e l'altra subito con lo stesso calcolo, poi ce ne vecchiamo le dita, a tutti i vostri video si fruscia. Vabbè, oh, dai, mocciona. telefono, non dice mai sento il mio oppure la fine, questo è il professore. Poi è rimasto il giorno almeno a più, quando non è mancato la voce, che va via la voce. Poi mica sentono l'audio vostro. Sì, ma tu quando dice più basso, cosa ti sento? La parla ancora più basso. Attento, non devi intrappolo due mentre i suoi cinchi, il cantiere ha ritrovato Giovanni, oh, e anda. Io devo lasciare la macchina a Olga, Oia. Beh, signori, vai, anch'io vi saluto, che domani si riempie. Ciao Salvatore, tieni duro Salvatore, che vedrai, tieni duro Salvatore, Gianni, guarda per affango, ascolta, tutti a domani. Appa, ciao Claudio, buonanotte, ci sentiamo le prossime, avanti Gianni. Sono bravo a far domani, non ricomincio. Per i saluti era Salvatore, che c'è rimasto? Tra le quali stanno quando... ciao Daniele, anche a te, o Claudio, hai capito? Sì, ho capito piano, una strada nell'aria. Non lo tengo sul comodino, ci ha accademiato. Signori, buonanotte, dai, vi saluto anch'io, sono le 11 ed è ora di andare a nata. Ciao, salutone a Marco, Daniele, Gianni, ciao anche a te. Ciao a tutti, ciao. Sono passato quattro. Marca non ha. Senti. Ciao Daniel, ciao. Alla prossima. Vi saluto a tutti, buonanotte. No, lo forse non ho preso bene, beh. Buonanotte a tutti, alla prossima, domani, Marco, per te, Gianni, tranquillo, speriamo anche quello, non ti preoccupare. Avanti, Marco. No, vabbè, chi c'è rimasto? Gianni parla poco perché... Già stai uscendo adesso, rispetto a prima. Non ti crociare troppo, mi. Anche miracoli non se ne possono fare, anch'io la luce brutta, quindi esco come esco. Oh, non è che riuscirò. Perché ci affischi, se tu guardi più di 5 watt, adesso sono 9 watt. Ma 9 watt. Se guardi più di 41 lì, comincia a fischiare di brutto. Ma dove c'è la batteria? Adesso la posizione della batteria della cambia, adesso ci ho pensato. Già, stavo pensando, siccome quel cavo del microfono hai detto, mi pare che è dritto, che sia poco schermato, non c'entra, perché il microfono spirale, il cavo spirale lo stesso non è a schermatura. No, ma prima di inserire, stava facendo, non ce l'avevo in mano, era ancora aperto, poi ho sistemato la batteria, adesso che non c'è la batteria, perché a volte la metti a rovescio e ti fischia, la metti al dritto. C'è qualcosa da vedere, ma peccato perché poteva andare bene anche in quello, ma sicuramente si risolve, basta di metterci qualche componente, non so come si chiamano quelle cose per evitare rientro di RF. Sai, vabbè, io lasciamo stare, sennò faccio brutta figura io. Che voglio che servite, si chiamano più che altro. La lancia al microfono. Lancia al cavo, capito? Così fa la cosa. E scarica. Allora, la cosa posizione è che il cavo fissa quando mette la potenza. Sentite le campane! qualcosa a me. Lo stesso difetto, quindi anche c'è un il cavo indossato da balacchino, cosa c'è un, come si chiama, cosa per il riscaldamento, quello che vuole, lo cancelli e scarica lì. Soluzione però, perché è seccante, è abbastanza seccante. Va bene, comunque Pomponio, siamo contenti. Pomponio, c'è una cosa, infatti aspetta un secondo, stavo sentendo una cosa a uno, cazzo, ma non lo sento più, cazzo, sembra un africano, mi sembra. Non è che ti ho sfruttato troppo oggi, no? No, Marco, non c'è niente, io lo sai, ho trovato la sera con un naso con la cola, c'era ieri, quindi non c'è che niente, mica se ci mancherebbe. Allora, a me mi ha fatto piacere, piazzare con l'antenna, veramente sono contento, perché ha avuto buoni risultati, quindi sono stato solamente per quello. E visto la differenza che c'è, voglio che c'è la differenza tra una e l'altra. Sì, quell'altra è un casino. Gianni, addirittura sai cosa abbiamo trovato sulla Ringo? Nonostante il nastro conglomerante, eccetera, c'era una piccola fessura nel nastro di un millimetro. È entrata l'acqua, ha fatto la ruggine nelle fascette e la sezione di antenna che era infilata dentro l'altra sezione, come l'abbiamo tolta, era nera dall'ossido, allucinante. Come dico così io, non mi crede nessuno. Però vedi, se avessimo fatto meglio l'isolamento tra ogni sezione degli stili, dello stilo, non sarebbe successo. Comunque l'antenna sì, troppe rogne. Adesso vediamo appena piove cosa succede con questa. Non credo che succeda niente, stavolta l'abbiamo isolata con i controcapi. Ci vuole vulcanizzante, no? Agglomerante, bisogna agglomerante. Che vulcanizzante ci vuole? Già, grosso modo lo stesso, il vulcanizzante diventa anche troppo duro. Antone, digli quanto abbiamo penato solo per levare l'agglomerante. Non so, già. Come già? Ho capito, mi sto sentendo male. Pomponio? Se vuoi, sto mandando un messaggio a uno. Se no, ti noto le balle. Aspetta. Cosa mi stavi chiedendo, Marco? Vai, Vittore. Io? Sono qua. Ah, meno male. Mi stavi dicendo? No, che già mi si è sentato. Non ho capito cosa ha detto. Ma dicevo, Antone, quanto che abbiamo penato a levare solo l'agglomerante. Non è che non si attacchi bene, caspita, sembrava cingomma appiccicato sopra proprio. Se l'avevo fatto bene, ha fatto bene, non ti credi. Scusi, c'è anche la vasellina, quindi sei tranquillo che ha posto con l'antenna. L'attacchi fa 30 anni, è come se fosse adesso. Ma spero che duri. La qualità della finitura sembrava abbastanza buona. Dell'alluminio, la qualità dell'alluminio sembrava buona. L'altra è durata un anno. L'abbiamo messa, cioè non durata un anno, sarebbe durata molto di più, ma se c'era l'ossido tra gli stili è un casino. L'abbiamo messa circa un anno fa, perché era tipo primavera, prima dell'estate, prima venisse il caldo, e l'abbiamo tolta adesso prima dell'estate, insomma, oggi primavera ma abbastanza calda. Ora, Nixa, a culo chi è? Sì, ora, già ti sento, già, non ti preoccupare, chi sei? Altra casa in culo, avanti, avanti. Come quello che si metteva sulla 27555 tutti i giorni, tutto il giorno, hola hola Coca Cola, hola hola Coca Cola, in banda laterale, non riuscivano a fare di ex per colpa di questo. Figurati, Coca. Come mi senti bene però Marco? Ha aumentato il segnale, sì. Ehi Antonè, prima eri circa 9.15, adesso sei praticamente 9.20. Quindi a voglia, già va bene, sono contento. Nessuno si è aumentato, ti vuoi niente zero, giusto? Beh, pare di no, però se lì, se i padroni di quell'antenna non ci sono, non si sa. Vediamo, ma... Speriamo abbiano un buon decoder. Sono aumentati poco fa, figurati adesso. Mi sei tranquillo, non ti preoccupare. Dormi in una botte d'acciaio. Non preoccupate. Pensa, se questa guadagna a Santiago, pensa alla Mantova. Guadagna 2 Santiago allora. Più, quindi è un bel casino pensarla. La vamos a ver, frequenza, se escuchi canal la Italia. Chissà come riceve le bande naturali. Io ho fatto un breve passaggio per ascoltare, ma i segnali erano già ben più alti. È logico che risuona, la cosa veramente diversa, quindi una frequenza, scucci Italia, ciucucciù. Naturalmente è aumentato anche il QRM. Prima a quest'ora avevamo circa 0 a 1 di QM, adesso è passato, vediamo un po' quanto. Sì, dai, va bene, beh, si sente la maggiore ricezione, altro che, non è eccezionale, ma funge. A voglia che funge, ci mancherebbe. Ascolta, in questi è entrato, che so, Gavino oppure Capri 2? No, ho sentito. Neanche io ho sentito, avete avanti. Ah, c'è Gianni, tutto bene? Sì, ha avuto una colica forte, Marco. Mi ha preso il testicoli, questo dolore fortissimo. E poi mi è venuto mal di pancia forte. Infatti hai detto, tipo mi sento male, ma cosa del genere. Anche a me è capitato, dalla parte bassa del tubo, ma passa poi, non so cosa sia, ma passa. Quando ne approccio, la tirarmi in due. Camomilla prendi subito, calda. Ehi Antonio, la camomilla alla fine è acqua calda, mi... un poco di più, un po' di zucchero, un po' di aroma. Ricordo quello che comunque sia, funziona, perlomeno. Ho mal di pancia. Io invece sono con la fedora, sto prestando la tomatina. Ci avevi visto, sono sempre con la cola solo. Di una di. Ehi, sul tavolo c'ho un paio di apparati. ogni tanto mi, quando non so cosa fare, mi guardo, mi metto davanti tutti gli apparati che ho, poi mi faccio le pippe. Beh, sì. Avanti, avanti, Oli, hola, canale 5. Ehi, sento gente parlare sul fondo. Hola, canale 5. Che dici? Peter, avere quanti watt hai detto? 5 8, oppure 8 watt? Senti, prima quanti ne usavi normalmente già? Adesso dici, insomma, 5. Differenza quanto dura dura quei venti che venivano così, però inutile, piove stazionarie quel tubo, se l'avessimo impermeabilizzato meglio il giunto tra lì non sarebbe entrata fece un millimetro. Lo so, però diventa più, abbiamo sudato per elevare l'autoagglomerante. Ok, c'è una chiamata. Attenzione ai capri. Certo, tutti i grammo. Caspita. Parla anche. Come concorrente? Oh, quando vedo fare il Groshan, che faccio dal baracchino. No, è un po' confuso, lo vedi un po' che cammina in stato confusionale. Adesso, caspita, sto invecchiando, potrebbe essere già da 84, ha compiuto 30 anni, 60 anni. Sì, i tempi dei peli. Sì, adesso mi ha fatto anche durata. Oppure lo invito a casa, lo faccio. Ah beh, no, infatti, so poi sottopassaggio andando a casa con le buste, c'era due buste belle piene. Mi avevo richiediato la piedrino. Oh, paraguru! Praticamente servivano per scappare da lui. Ah no, è un corso, diciamo, ma in qui. Purtroppo anche lui disturbava sui canali che lavoravano sui canali, cazzi? Sì, quelli che ritiravano le macchine. E lì so, andava la gara lì sotto. Loro lo usavano per lavoro e lui sempre in mezzo alle scatole. L'antenna che diciamo più in alto è l'antenna proporzione è più vicina a te. Io sono appena a terra e l'antenna è invece tutta sul tetto, molto più lontana da tutto dall'alimentatore, quindi immagina meno rientri di RF, più lontana e meglio è dalla radio. Non ha fatto male nel cucino, se che ci penso. Ok, se si può, se si può alimentare il microfono solo dalla radio, prova a vedere se fischia, oppure lo alimenti solo con batterie, rischia, insomma, a vedere un po'. Avanti Antonello, dai, se sto chiudendo già ti saluto e ti mando Antonello. E questo è alimentato dalla radio, Marco. È alimentato dalla radio, solo che l'equalizzatore è alimentato dalla batteria. Ah, così è. Se tu lo volessi alimentare solo dalla radio o solo a batteria, si può fare? Sì, sì. Perché in un modo o nell'altro potresti risolvere il problema. Solo alimentato solo dalla radio o solo con la batteria, vedere le differenze. Poi quando trovi che non fischia, lo usi così. Purtroppo, vabbè, dovrei cambiare batteria ogni tanto. Sì, vabbè, quello non è un problema. Adesso comunque lo controllo, adesso lo controllo. Ci sentiamo, Marco, domani, buonanotte. Ciao Gianni, buonanotte, ci sentiamo le prossime. Avanti Antonè. Ciao Gianni, domani mattina, domani sera, come vuoi, ci sentiamo le prossime. Avanti Marco. Ehi, mamma mia, speriamo di dormire stanotte. Avendo faticato, in genere si dorme. Ma che poi la fatica non era molta. Rispetto alla tua, insomma. Adesso io, guarda, infatti, chiudo e mi corico, perché certo sono stamattina alle 4 in piedi, io, figurati. Non sono neanche andato a fare la spesa per lui, per mio fratello, figurati tu. Gli ho detto, vai tu, arrangiati tu. Io sono a casa, ho detto, con tua madre. Perché mi sono addormentando in piedi, quindi come sono andato, si è fatto la spesa e quindi sono entrato direttamente con casa, ho cenato, adesso guarda la verità, come si deve, sto dicendo, non sbaglio, ho fatto ieri, mi sono fregato. Eia, vabbè, poi quando finirai non hai altre incombenze, quindi faticherai meno. Adesso domani mattina mi faccio quel lavoro, incasso e poi già sono tranquillo. Per la mela, se tu vuoi chiamare il comportatile, se mi senti, aspetta un secondo, ti chiamo comportatile. Sì, prova. Sezione 2. Bassa, però ti ho capito, dai. Attaccato ti sento meglio, prova un po'. Prima non mi si ricorda niente, figurati tu, come adesso mi senti, quindi domani quando ho finito se sei a casa. Sì, prima non ti ho capito, tipo Santiago quant'era? 1, 2, 3 forse. Adesso è 6, però è già comprensibile. Se parli proprio sopra il mic si sente. Mangia. Ci sentiamo le prossime. È ok, da. Tanto fino adesso pensavo a 1,5 di 2, una cosa del genere. Ti faccio la chiamata al limite. Al mar, chi con quello che vuoi là. A me ho mangiato patatine. Ehi, domani mattina andiamo dal medico e poi entrerò di sera, oppure ci vediamo di sera. Va bene, buonanotte. A te tanto, ciao, buonanotte. A domani.